Tra i protagonisti di questa Pasqua, oltre e a miglior titolo dell'ex ministro Calderoli, va indubbiamente annoverato il compagno Giuda Iscariota. Lo chiamo compagno perché su un piano squisitamente storico non posso negare ad essere stato colpito dall'interpretazione che del controverso personaggio dal nostro comune amico Accame in quel saggio della sua ontologia del sistema delle stelle in cui quell'inquietante figura viene ricondotto alla categoria del classico pentito o a quella dell'infiltrato, perché no, di uno più a sinistra del suo capo, tanto a sinistra da giudicare insufficiente la strategia anti-imperialista di quest'ultimo e da pregare conseguentemente per liberarsene. In effetti, se incrociamo quanto si sa sulla situazione ideologica della Palestina di allora con quel poco che in merito ci dicono i Vangeli, l'ipotesi risulta abbastanza plausibile. Aderente, come del resto altri discepoli del Signore, al partito degli Zeloti e fautori della necessità della lotta armata contro l'occupazione romana, Iscariota avrebbe agito soprattutto per reazione all'atteggiamento del Salvatore, che sull'argomento armi non aveva nessuna intenzione di impegnarsi, e se ogni tanto diceva di essere venuto a portare la spada e non la pace, in Matteo 10:34-39, nel concreto non andò mai oltre le randellate ai mercati del Tempio, che evidentemente per un ardente patriota erano un po' poco. Serviva in un certo senso un salto di qualità, salto che a Giuda poi andò male, visto che la maggioranza del movimento si guardò bene dal dargli ragione, ma sono i rischi del mestiere. Questo vi dicevo sul piano storico. Ed è un peccato che una certa reticenza delle fonti impedisca di approfondire l'ipotesi quanto merita. Dal punto di vista teologico, invece, la questione è molto più semplice. Quello di Giuda è un caso particolare, un'applicazione specifica del problema generale della provvidenza divina, che ci costringe a chiederci come sia possibile conciliare l'esistenza del male soggettivo od oggettivo con l'ipotesi di un Dio benevolo, onnipotente e onnisciente. Se Gesù era vero Dio oltre che vero uomo, non poteva ignorare, nel momento in cui inserì Giuda nella ristretta gerarchia degli apostoli, e come si dice, si narra in Luca 6:13-16, non poteva ignorare che il disgraziato aveva certe tendenze che a un certo punto l'avrebbe consegnato al nemico. E allora nasce il Vangelo di Giuda, il testo del III secolo la cui imminente pubblicazione in edizione divulgativa ha fatto temere a qualcuno, soprattutto al Papa, che ci ha speso parecchie parole, la possibilità di un tentativo di riabilitazione dell'arcitraditore, e che invece non rappresenta altro che un tentativo disperato di sanare la contraddizione secondo una logica dell'assurdo che l'ambiente gnostico da cui quel documento proviene ha sempre coltivato in tutta la sua storia. Il tradimento è un elemento essenziale del piano della redenzione, perché per redimere l'umanità Cristo doveva essere crocifisso. Gesù aveva nonché previsto, preordinato e voluto. In questo caso l'unica colpa di Giuda sarebbe quella di essersi fatto tramite della volontà divina, di aver scientemente collaborato alla sua realizzazione, il che non sembra esattamente giustificare la sistemazione tradizionale nel cerchio più basso dell'inferno tra le zanne di Lucifero in persona. È un problema di conseguenzialità logica dello stesso tipo, anche se non mi sembra che l'ognosticismo se ne sia mai occupato, può riconduci la tematica di un altro testo che in questi giorni ha molto inquietato il pontefice, ed è stato anche oggetto della condanna esplicita del suo predicatore di fiducia, tale Monsignor Cantalamessa, uno per cui il motto Nomen Omen ha un valore straordinario. E ci riferiamo a quel Codice da Vinci di Dan Brown, in cui, accanto a una trama gialla piuttosto banale e a molte amene sciocchezze di tipo storico-ideologico, si affaccia un'interpretazione esoterica della leggenda del Santo Graal basata sull'ipotesi audace di un redentore convivente more uxorio con la Maddalena, roba da far rabbrividire generazioni e generazioni di teologi inclini alla sessuofobia, eppure anche in questo caso qualche ragionevole motivazione la si può cercare. si può rintracciare. Se Gesù, oltre che vero Dio, era vero uomo, non si capisce perché dovesse essere refrattario a un certo tipo di richiami. Oltretutto, tra i suoi seguaci si annoverava un certo numero di donne, che i Vangeli non sterilizzano ancora con l'epiteto di pie, come si fa in seguito, e il suo insegnamento, in rapporto ai valori, alle prescrizioni, ai tabù correnti, virava sicuramente sull'anticonformista. Aveva anche un certo gusto dello scandalo. E allora perché no? Ci si muove ovviamente sul piano dell'ipotetico puro, ma nulla vieta di specularci un po' sopra. Tanto è vero che l'idea non è venuta soltanto a Dan Brown, ma è facile rintracciarla in una molteplicità di fonti e cui il romanziere americano può avere e non avere, ma probabilmente ha, attinto a piene mani. Come contributo personale in quanto autore di cose greche, non posso non segnalarvi l'importante romanzo di Nikos Kazantzakis, O Telefteos Pirasmos, L'ultima tentazione, che negli anni 50 del secolo scorso procurò all'autore di Zorba una quantità di guai con la sua chiesa e con le altre, senza neanche il beneficio dei diritti d'autore che Dan Brown avrebbe incassato mezzo secolo dopo. Ma così va il mondo, naturalmente. Sembrerebbe dunque che il Papa si sia scomodato per niente. Sulla Maddalena e i suoi amori si fantastica come minimo da mezzo secolo, anche a non voler entrare nel campo minato della letteratura e paraletteratura sul Graal, e la speculazione su Giuda risale addirittura ai primi secoli dell'elaborazione teorica del pensiero cristiano. Non si capisce dunque perché abbandonarsi ad anatemi che, pur abbastanza moderati nei toni, sembrano, come dire, un po' fuori tempo massimo. Boh. Forse perché l'ottimo Benedetto, oltre che un fine teologo, è uomo che ben conosce il mondo e sa che poco o nessun danno può venire alle istituzioni ecclesiastiche da un papiro frammentario pubblicato in qualche oscura rivista accademica nel testo copto, mentre se lo si traduce, lo si integra e lo si distribuisce nelle edicole in abbinamento a un mestiere di vasta diffusione, i rischi che qualcuno vengano delle idee strane sulle contraddizioni tra Vangelo e Catechismo tendono a crescere in maniera esponenziale. E l'ipotesi Maddalena, naturalmente, non dà fastidio a nessuno finché è contenuta in oscuri romanzi neogreci o è diffusa nell'ambiente vasto ma limitato dei cultori del Graal. Ma quando comincia a circolare, sia pure in un brutto romanzo in 10, 20, 30, 40 milioni di copie, e si parla di farne un film di sicuro successo e via dicendo, le conseguenze possono essere imprevedibili. Insomma, ciascuno è figlio della propria storia. Non si può aver fatto per un paio di decenni il prefetto del Santo Uffizio senza aver assunto in via permanente una certa disposizione di spirito. Probabilmente né Dan Brown né gli autori del National Geographical Magazine, che è il testo che pubblicherà il Vangelo di Giuda, meritano di essere annoverati tra i ranghi dei seminatori di scisma e dei maestri del pensiero ereticale, almeno ne dubito, ma questo non è un buon motivo per non mandarli almeno metaforicamente sul rogo. E anche questo, dal punto di vista del Papa, è un problema di conseguenzialità logica.